Capitolo 36. Il presagio si avvera. Notizie da Green Gables, Anna? Oh, niente di particolare, rispose Anna ripiegando la lettera di Marilla. Jake Donnell ha rifatto la copertura del tetto, è un carpentiere finito, quindi deve averla spuntata lui sulla scelta del mestiere. Ricordi che la madre voleva farne un professore universitario? Ah, non dimenticherò mai quando venne a scuola per dirmi che dovevo chiamare suo figlio St. Clair. C'è ancora qualcuno che lo chiama così? Ma evidentemente no. A quanto pare quel nome se l'è scrollato di dosso. Persino la madre si è arresa. Mi ero accorta che Jake aveva il muso duro di chi riesce sempre a fare a modo suo. Diana mi scrive che Dora ha un corteggiatore. Ma sei ancora una bambina. Dora ha 17 anni, disse Gilbert. Quando tu avevi 17 anni, Anna, io e Charlie Sloane stravedevamo per te. Gilbert, stiamo proprio invecchiando, disse Anna con una punta di tristezza. Pensa, una bimbetta che aveva solo 6 anni ora ha l'età per essere corteggiata. Beh, lo spasimante di Dora è Ralph Andrew, il fratello di Jane. Lo ricordo, un bimbetto tondo e grassoccio, dai capelli biondissimi, sempre tra gli ultimi della classe. Ma a quel che mi si dice ora è un bel ragazzo. Probabilmente Dora si sposerà giovane, in questo è come Carlotta IV. Non si lascerà scappare la prima occasione per paura di non averne altre. Beh, se sposerà Ralph, spero che sia un po' più sveglio del fratello Billy, riflette Anna. Per esempio, disse Gilbert ridendo, speriamo che sia capace di chiederla in moglie di persona. Anna, avresti sposato Billy se te lo avesse chiesto lui invece di fartelo chiedere da Jane? Chissà. Anna fu colta da un irriso irrefrenabile alla prima proposta di matrimonio ricevuta in gioventù. Forse la sorpresa mi avrebbe ipnotizzata a tal punto da farmi prendere una decisione sciocca e avventata. Per fortuna, si dichiarò per interposta persona. Ho ricevuto una lettera da George Moore ieri, disse Leslie, che in un angolo della stanza stava leggendo. Oh, e come sta? Si informò premurosamente Anna con la strana sensazione di chiedere notizie di uno sconosciuto. Sta bene, ma trova molto difficile adattarsi ai cambiamenti avvenuti nel suo ambiente. A primavera si imbarcherà di nuovo. Ah, il mare nel sangue, dice, e non può farne a meno, ma sono contenta per lui, per un altro motivo. Prima del viaggio sulla Quattro Sorelle era fidanzato con una ragazza. A Montreal non me ne aveva parlato perché credeva che l'avesse dimenticato e avesse sposato qualcun altro. Lui invece l'amava come se il fidanzamento fosse cosa recente e ne soffriva parecchio. Quando tornò a casa, però, scoprì che la ragazza non si era sposata e gli voleva ancora bene. Si sposeranno nell'autunno. Gli chiederò di portarla qui per farmela conoscere. Dice che vuol vedere il posto dove ha vissuto per tanti anni senza saperlo. Oh, che storia romantica, disse Anna, che era rimasta una gran sentimentale. E pensare, aggiunse con un sospiro di autocondanna, che se l'avessi spuntata io, George Moore non sarebbe mai resuscitato dalla tomba in cui era sepolta la sua identità. Ero così contraria alla proposta di Gilbert. Beh, sono proprio pentita. D'ora in poi non oserò più dargli torto. Se ci provassi mi ridurrebbe al silenzio rinfacciandomi il caso di George Moore. Oh, come se bastasse per ridurre una donna al silenzio, la canzonò Gilbert. Però non metterti a farmi l'eco, Anna, un po' di contrasto dà sapore alla vita. Non voglio una moglie come quella di John McAllister. Qualunque cosa lui dica, la moglie commenta subito con quella vocina spenta in colore, è proprio vero, John caro. Anna e Leslie risero. Il riso di Anna era argento vivo. Quello di Leslie era d'oro. E si fondevano in un perfetto accordo musicale. Susan, entrando, fece eco a quel riso con un sonoro sospiro. «Oh, Susan, che c'è?» chiese Gilbert. «Il piccolo Jem sta male, Susan?» chiese Anna allarmata. «No, no, si calmi, dottora cara, però qualcosa è successo. Cielo, questa settimana mi sono andate proprio tutte storte. Ho rovinato il pane, come lei sa bene, ho strinato lo sparato della camicia bella del dottore e ho rotto il piatto da portata. E ora, per terminare l'opera, vengo a sapere che mia sorella Matilda si è rotta una gamba e vuole che vada a stare da lei per un po'. Oh, mi dispiace!» «Voglio dire, mi dispiace che tua sorella abbia avuto questo incidente», esclamò Anna. «Ah, l'uomo è nato per piangere, dottora cara. Sembra una frase della Bibbia, ma mi dicono che l'ha scritta un certo Burns. Però non c'è dubbio che siamo nati per soffrire, come le faville per salire in alto. Quanto a Matilda, non so cosa pensare. In casa nostra nessuno si è mai rotto le gambe. Nonostante tutto, è sempre mia sorella e sento che è mio dovere andare ad assisterla. Se può fare a meno di me per qualche settimana, dottora cara. Oh, certo, Susan, certo, troverò qualcuno che mi aiuti in tua assenza. Altrimenti non vado, dottora cara. A costo di dispiacere a Matilda, non vorrei procurarle pensieri o scombussolare quel piccolo tesoro per nessuna gamba al mondo. Oh, devi andare immediatamente da tua sorella, Susan. Posso prendere una ragazza del villaggio e ci arrangeremo. Anna, posso venire a stare con voi mentre Susan non è qui? Esclamò Leslie. Oh, per favore, ci terrei molto e sarebbe un atto di carità da parte tua. Sono terribilmente sola in quella enorme casa. Non ho quasi niente da fare, la notte è ancora peggio. Sto sul chi vive, ho paura, nonostante le porte sbarrate. C'era un vagabondo in giro un paio di giorni fa. Anna consentì con piacere e il giorno seguente Leslie si installò come ospite nella casetta dei sogni. La signorina Cornelia approvò caldamente la sistemazione. È una vera provvidenza, disse a parte ad Anna. Mi dispiace per Matilda Clow, ma se proprio doveva rompersi una gamba, meglio che se la sia rotta adesso. Leslie sarà qui con voi quando Owen Ford verrà a Four Winds e quelle male lingue di Glenn non avranno da criticare come avrebbero fatto se Owen Ford fosse andato a trovarla a casa sua. Già hanno da dire la loro perché non porta il lutto. Io ho detto, se è per George Moore che dovrebbe portare il lutto, non ha senso, perché invece di morire è risuscitato. Se è per Dick, non capisco la necessità di mettersi in gramaglie per un uomo morto 13 anni fa, senza contare la bella liberazione che ha dato. Quando Louisa Baldwin si è stupita perché Leslie non ha mai avuto sospetti sull'identità del presunto marito, io le ho detto: neanche tu hai mai avuto sospetti, eppure eri vicina di Dick Moore da sempre e per natura sei 10 volte più sospettosa di Leslie. Ma certe male lingue non c'è verso di farle tacere, Anna cara, e sono davvero contenta che Leslie sia sotto il tuo tetto quando Owen le farà la corte. Owen Ford giunse alla casetta in una sera d'agosto, mentre Anna e Leslie erano intente all'adorazione del bambino. Arrivò, senza essere visto, sulla soglia del soggiorno e osservò con intensità il bel quadretto. Leslie era seduta sul pavimento con il bambino in grembo e accarezzava entusiasta le manine paffute che sventolavano a mezz'aria. Bello, tesoro, amore, mormorò prendendogli una manina e coprendola di baci. Angioletto caro della mamma, le fece eco Anna, sporgendosi con aria adorante sul bracciolo della poltrona. Che belle zampettine, piccine, piccine ha il mio ometto. Anna, nei mesi di attesa del piccolo Jem, aveva diligentemente consultato parecchi volumi, concedendo la propria fiducia ad uno in particolare, l'esperto e l'allevamento dei bambini. L'esperto implorava i genitori, per ciò che avevano di più caro al mondo, di parlare sempre normalmente ai figli. Dal momento della nascita bisognava rivolgersi ai bambini con un linguaggio privo di vezzeggiativi e storpiature, così avrebbero imparato ad esprimersi correttamente fin dall'inizio. L'esperto si chiedeva com'è possibile aspettarsi che un bambino o una bambina imparino a parlare una lingua accettabile quando la madre sottopone continuamente la sensibile materia grigia dell'infante alle assurde espressioni e alle distorsioni della nostra nobile lingua che sentiamo infliggere quotidianamente su creature inermi. Come può una creatura che viene invariabilmente chiamata angioletto bello della mamma, acquisire un adeguato concetto della propria identità, delle proprie capacità e del proprio destino. Anna era stata colpita da tutto questo e aveva informato Gilbert di voler seguire l'inflessibile regola. Gilbert si era trovato d'accordo con lei e avevano stretto un patto solenne, patto che Anna aveva violato clamorosamente non appena aveva preso il piccolo Jem tra le braccia. Oh, angioletto caro e bello della mamma, aveva esclamato. E da allora il patto veniva violato in continuazione. Quando Gilbert glielo faceva notare, Anna rideva e si faceva beffe dell'esperto. Oh, non ha mai avuto prole sua, Gilbert, ne sono certa, altrimenti non avrebbe mai scritto certe stupidaggini. È naturale e giusto parlare ai bambini piccoli con parole da bambini piccoli. Sarebbe una crudeltà rivolgersi a quelle tenere creature come ai bambini più grandi. I neonati e le neonate hanno bisogno di amore, di coccole, di paroline dolci e il piccolo Jem le avrà, vero, angioletto bello della mamma? Ma tu esageri, Anna, controbatté Gilbert, che, non essendo madre ma solo padre, era propenso a dar ragione all'esperto. Non ho mai sentito nessuno vezzeggiare un bambino come fai tu. È molto probabile. Basta ora. Non ho forse allevato 3 coppie di gemelli Hammond prima degli 11 anni? Tu e l'esperto siete solo freddi teorici. Gilbert, guardalo, mi sorride. Sa di che cosa stiamo parlando. E non è vero, angioletto caro della mamma, che alla mamma dai tutte le ragioni? Gilbert racchiuse in un abbraccio madre e figlio. Oh, voi madri, disse. Voi madri, Dio sapeva quel che faceva quando vi ha create. Così il piccolo Jem ebbe paroline dolci, amore e coccole e crebbe robusto come si conveniva a un bambino della casetta dei sogni. Leslie era pazza di lui quasi quanto Anna. Quando avevano finito i lavori e Gilbert non era in casa, si abbandonavano a grandi manifestazioni di tenerezza e a vere orge di adorazione, come quella a cui stava assistendo Owen Ford in quel momento. Leslie fu la prima ad accorgersi della sua presenza. Anche alla luce tenue del crepuscolo, Anna vide il pallore diffondersi rapido sul bel volto dell'amica, cancellando il colore dalle labbra e dalle guance. Emozionato, Owen venne avanti come se Anna non esistesse. Leslie, disse tendendo la mano. Era la prima volta che la chiamava per nome, ma Leslie lo salutò con freddezza e tacque per tutta la serata, mentre Anna, Gilbert e Owen ridevano e parlavano. Salì presto in camera sua con una scusa. Owen perse la sua allegria e si congedò poco dopo con aria abbattuta. Gilbert guardò Anna. Anna, cosa combini? Sta succedendo qualcosa che non capisco. È tutta la sera che qui dentro c'è un'aria elettrica. Leslie sta seduta ferma e zitta come la musa della tragedia. Owen Ford ride e scherza, ma poi guarda Leslie con uno sguardo che stringe il cuore. Tu sembri sempre sul punto di dar sfogo a un'emozione repressa. Ammettilo, qual è il segreto che hai tenuto nascosto al tuo povero marito? Oh, non essere stupido, Gilbert, fu la secca risposta di Anna. Quanto a Leslie, si è comportata in modo assurdo e salgo subito a dirglielo. Anna trovò Leslie davanti alla finestra dell'abbaino. Il piccolo vano riecheggiava del rimbombo ritmico del mare. Leslie sedeva con le mani intrecciate, presenza bella e accusatrice al pallido chiarore lunare. Anna, disse in sommesso tono di rimprovero. Sapevi che Owen Ford sarebbe venuto a Four Winds? Sì, rispose Anna con decisione. Oh, Anna, avresti dovuto avvertirmi, esclamò Leslie con impeto. Se l'avessi saputo sarei andata via, non sarei rimasta qui. Avresti dovuto dirmelo. Hai fatto male, Anna, hai fatto molto male. Leslie parlava con le labbra tremanti, tesa per l'emozione, ma Anna rise allegramente, si chinò e baciò il viso pieno di rimprovero sollevato verso di lei. Leslie, sei un'adorabile sciocchina. Owen Ford non si è precipitato fin qui dall'altra parte dell'America solo per rivedere me, e non credo che sia stato travolto da una passione per la signorina Cornelia. Scrollati di dosso le tue arie da tragedia, amica mia, ripiegale e riponile in un cassetto con lo spigo. Non ne hai più bisogno. Certa gente sa vedere le cose lontano un miglio, ma tu proprio no. Io non sono una maga, ma mi azzardo a fare una profezia. Per te sono finiti i momenti amari. D'ora in poi avrai le gioie, le speranze e i dolori di una donna felice. Leslie, per te si è avverato il presagio dell'ombra di Venere. L'anno in cui l'hai vista ti ha portato la felicità e l'amore di Owen Ford. Ora vai subito a letto e dormi. Leslie le obbedì e andò a letto, ma è da dubitare che quella notte abbia dormito molto. Neppure osò sognare ad occhi aperti. La vita era stata troppo dura per lei. Il cammino assegnatole dal destino troppo arduo perché potesse abbandonarsi a nutrire speranze per il futuro. Restò a osservare i fasci di luce del faro che sventagliavano nell'oscurità della breve notte estiva, e i suoi occhi diventarono nuovamente dolci, vivi e giovani. E quando il giorno dopo Owen Ford venne a chiederle di fare una passeggiata sulla spiaggia, non rifiutò l'invito. Capitolo 37. La signorina Cornelia dà un annuncio sensazionale. Era un sonnolento pomeriggio di agosto. Le acque del golfo avevano l'azzurro sbiadito delle calde giornate estive e i gigli tigrati del giardino di Anna presentavano le sontuose corolle al sole di agosto per riceverne la calda colata d'oro. La signorina Cornelia era indifferente al mare da cartolina e ai gigli assetati di sole. Si sedette sulla sedia d'ondolo preferita e restò insolitamente inattiva. Non cucì, non filò e non pronunciò una sola parola di critica nei confronti dei propri simili. In breve, la conversazione della signorina Cornelia quel giorno era stranamente priva di mordente e Gilbert, che aveva appositamente rinunciato ad andare a pesca, la prese come un'offesa personale. Che era successo alla signorina Cornelia? Non sembrava né triste né preoccupata, al contrario, appariva eccitata. Dov'è Leslie? Chiese, anche se si capiva che non le importava granché. Con Owen a cogliere lamponi nei boschi dietro la fattoria, rispose Anna. Torneranno all'ora di cena, se torneranno. Sembra che non sappiano cos'è un orologio, disse Gilbert. Non riesco ad arrivare al fondo di questa faccenda. Sono certo che voi due avete fatto la vostra parte. Anna si ribella agli ordini del marito e non vuole dirmelo. Vuol dirmelo lei, signorina Cornelia? No. Ma le dirò qualcos'altro, rispose la signorina Cornelia con l'aria decisa di chi vuol farla finita. Sono venuta apposta per dirvelo. Mi sposerò presto. Anne e Gilbert tacquero. Se la signorina Cornelia avesse annunciato di volersi uccidere gettandosi nel canale, avrebbero potuto crederle, ma a questo, oh, a questo no, non si poteva credere. Così aspettarono. La signorina Cornelia doveva essersi sbagliata. Beh, mi sembrate tutti e due sbalorditi, disse la signorina Cornelia con un guizzo di ironia negli occhi. Ora che il momento imbarazzante dell'annuncio era passato, era di nuovo se stessa. Credete che io sia troppo giovane e inesperta per il matrimonio? Sa, è proprio sbalorditivo, disse Gilbert cercando di riprendersi dal colpo. Le ho sentito dire più e più volte che non si sarebbe sposata mai, nemmeno con l'uomo migliore del mondo. Io non sposerò l'uomo migliore del mondo, ribatté la signorina Cornelia. Marshall Elliot è ben lontano dall'esserlo. Sposerà Marshall Elliot? Esclamò Anna, riacquistando l'uso della parola dopo questa seconda sorpresa. Sì, da 20 anni mi sarebbe bastato alzare un dito per averlo ai miei piedi. Ma credete che avrei potuto entrare in chiesa al fianco di quel pagliaio ambulante? Siamo molto lieti e le auguriamo ogni felicità, disse Anna con poca fantasia. Se ne rendeva conto, ma non era preparata a un'occasione del genere. Mai avrebbe pensato di doversi felicitare per le nozze della signorina Cornelia. Oh, grazie, ci contavo, disse la signorina Cornelia. Siete i primi amici a saperlo. Però ci dispiacerà perderla. Cara signorina Cornelia, Anna incominciando a sentirsi un po' triste e sentimentale. Oh, non mi perderete, disse la signorina Cornelia in tono per niente sentimentale. Non crederete che vada a vivere dall'altra parte della baia con tutti quei McAllister, Elliot e Crawford? Dalla presunzione degli Elliot, dall'orgoglio dei McAllister e dalla vanagloria dei Crawford, liberaci, o signore. Marshall verrà a vivere a casa mia. Sono stufa dei garzoni. E quel Jim Hastings che ho preso quest'estate è senz'altro il peggiore della razza. Pur di togliermelo di torno, sposerei chiunque. Ci credete? Ieri ha rovesciato la zangola e ha sparso panna per tutto il cortile. Non si è minimamente scomposto. Ha riso come uno stupido e ha detto che la panna ingrassa il terreno. Tipico degli uomini. Gli ho detto che non ho l'abitudine di fertilizzare il cortile con la panna. Beh, anch'io le auguro ogni felicità, signorina Cornelia, disse Gilbert solennemente. Poi aggiunse, incapace di resistere alla tentazione di stuzzicare la signorina Cornelia, nonostante lo sguardo implorante di Anna, credo che per lei siano finiti i giorni dell'indipendenza. Come sa, Marshall Elliot è un uomo di carattere. Mi piacciono gli uomini che sanno tener duro, ribatté la signorina Cornelia. Amos Grant, che mi faceva la corte anni fa, non era capace. Non ho mai visto una banderuola simile. Una volta si buttò nel laghetto con l'intenzione di farla finita, poi cambiò idea e ne uscì a nuoto. Tipico degli uomini. Marshall avrebbe mantenuto la parola e sarebbe affogato. Ed è anche nervosetto, a quanto mi si dice. insistette Gilbert. Non sarebbe un Elliot altrimenti. È una fortuna. Sarà divertentissimo farlo montare in collera. Ed è più facile, una volta passata la sfuriata, ottenere qualcosa da un uomo nervoso che da un uomo calmo ed esasperante. Sa che è liberale, signorina Cornelia. Già, ammise con una certa tristezza la signorina Cornelia, e naturalmente non c'è da sperare di farne un conservatore, ma perlomeno è presbiteriano. Credo che dovrò accontentarmi così. Lo sposerebbe se fosse metodista, signorina Cornelia? No, la politica è di questo mondo, ma la religione non è di questo mondo, è dell'altro. Così, dopo tutto, anche lei potrebbe diventare una vedova afflitta, signorina Cornelia. Oh, impossibile! Marshall mi sopravvivrà, gli Elliot sono longevi, i Bryant no. E quando vi sposerete? Chiese Anna. Oh, per circa un mese. L'abito da sposa sarà di seta blu e volevo chiederti, Anna cara, se pensi che potrei indossare il velo con l'abito blu. Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto il velo se mi fossi sposata. Marshall dice di metterlo pure se voglio. Tipico degli uomini, vero? E perché no? Chiese Anna. Beh, non vorrei essere diversa dalle altre, disse la signorina Cornelia, che era palesemente diversa da tutte le donne di questo mondo. Come ho detto, mi piacerebbe il velo, ma forse va indossato solo con l'abito bianco. Anna, cara, dimmi per favore che ne pensi e seguirò il tuo consiglio. Beh, credo che di solito il velo si porti solo con l'abito bianco, ammise Anna. Ma è soltanto una convenzione e do ragione al signor Elliot, signorina Cornelia. Non vedo per quale motivo non dovrebbe indossare il velo, se lo desidera. Ma la signorina Cornelia, che per altri versi era poco formale, scosse la testa. «Se non è adatto, non lo indosserò», disse con un sospiro di rimpianto per il sogno infranto. «Poiché è proprio decisa a sposarsi, signorina Cornelia», disse Gilbert con solennità, «le svelerò le regole cardinali per tenersi stretto il marito svelate da mia nonna a mia madre quando sposò mio padre». «Beh, credo che non avrò problemi con Marshall Elliot», disse tranquillamente la signorina Cornelia, «ma sentiamo queste regole». «Dunque, la prima è acchiapparlo». «Già acchiappato, continui». «La seconda è rimpinzarlo». «In cucina ci so fare». «Poi?» «La terza e la quarta sono tenerlo d'occhio». «Sante parole!» disse con enfasi la signorina Cornelia.